Ti ho aspettato, altro che se ti ho aspettato. E non dirmi che non ti ho aspettato, non dirlo, perché io per aspettarti ti ho aspettato. E se trovassi sto cazzo di telefono ti chiamerei. Mannaggia Giovanni, ma proprio oggi, proprio oggi. Perché io per aspettarti ti ho aspettato, altro che se ti ho aspettato. E non dirlo neanche per scherzo, Se no io ti cavo un occhio, caro mio Giovanni. Eh sì che ti cavo un occhio. Io ti levo tutti e due gli occhi, mica scherzo io. E tu lo sai, Giovanni, che non scherzo. Perché per aspettarti, io ti ho aspettato. E giù a telefonare, a telefonare, a telefonare, a telefonare. Trovato. Qua. Chiama. 3, 2, 5, 6, 8, 9, 0, 9. Aspetta. Pronto? C'è Giovanni? Giovanni non c'è, è uscito, ma poi ritorna. Tu chi sei? Sei Mary. Ciao Mary, come va l'amore, come va? Non ti preoccupare che Giovanni torna, quello torna. Figurati se non mi torna, mi torna, mi torna. E come che mi torna? Te non ti preoccupare che Giovanni torna. Fregatene, Mary! Fregatene, fregatene, fregatene, fregatene, fregatene! Ma quale fregatene e fregati? Non me ne frego manco per niente. Me ne frego. Ma che c'ho scritto sale e tabacchi? Ma che sei scema che io me ne frego? Che io a Giovanni gli spacco la faccia, gli spacco. Che ti credi? Che se uno mi dice che alle 10 oggi c'è e poi lui alle 10 oggi non c'è. Io gli spacco la faccia perché mica sono scema che uno mi dice guarda che alle 10 ci sono e poi non c'è. E ti dico che non c'è. E non c'è. E io un orologio ce l'ho. Hai voglia se ce l'ho. L'Omega, mica cazzi. E con l'Omega mica si scherza, che è roba fina. Movimento. Ancora 25 rubis. Roba svizzera. Che fai, scherzi? E se l'Omega ti dice che sono le 10? Tranquillo che sono le 10 dappertutto. Piglia sto telefono. E Giovanni non si è visto. E io mica posso passare tutto il giorno a aspettare sto picio di Giovanni. Sta. Stai tranquilla, Marie, stai tranquilla. Che se ti dico alle 10 è perché alle 10 sono e qui sono. Mettiti tranquilla, mettiti tranquilla. Che alle 10 ci sono io. Quant'è vero Cristo, ci sono io. Stai serena, Marie, stai serena, che alle 10 io vengo, hai voglia che vengo, che te lo sai che io sono uno che per venire vengo. A quello che ho prodotto come l'altra volta, e pantaloni, magliette, magliettine, camicie, camicette, giacche, e borse, scarpe, scarpe, borse, tutto le compra, Marie, che io sono uno che per comprare compra. Ma che ti compri te? Che ti compri? Dimmi quando compri, che la roba ce l'ho qui pronta, e ai marocchini non gliela do. Vuoi 2000? Ma quale 2000? Marocchino di merda, ma che c'ho scritto vernice fresca in fronte? Marocchini danno poco, danno poco. Poco? Niente danno, che danno sti marocchini? Niente di niente danno. E io non gliel'ho data la roba, caro Giovanni. Ma se te mi dici che oggi ci sei alle 10 e poi alle 10 oggi non ci sei, ma io che faccio, Giovanni mio, ma che faccio? Prendo sul telefono e telefono alla tua signora. Oddio no. Sì, no. Chiama. Mannaggia. Chiama. La miseria. 5, 8, 9, 0, 9. Pronto, c'è Giovanni? È uscito stamattina prezzo, col mezzo. Sì, passa. Allora, e quando torna sto stronzo di Giovanni, signora delle mie palle? Quando torna quello stronzo cornuto che m'ha giurato che stava qui? E io, signora, un orologio ce l'ho, l'Omega, mica cazzi! Di mio padre, l'Omega, di mio padre, che quello ci ha fatto la campagna d'Africa, d'Albania, di Grecia con l'Omega. Quello ci ha fatto la ritirata in Cirenaica. Ci ha fatto che quel disgraziato si è fatto 200 chilometri di corsa nel deserto, da Bengasi a Marsamatruk, tutti di corsa, con gli inglesi al culo, sempre con l'Omega. Roba fina, roba giusta. Movimento ancora 25 rubis. Che solo quelli sono già un capitale. Ma lui, signora mia, se l'è riportato a casa perché lui non era mica un rotto in culo come Giovanni. Scusi la frase, eh? E se diceva le 10? Erano le 10, mica come quel pezzo di merda di suo marito. E vabbè, dai. Che l'ha visto lei? L'ha visto? Nemmeno io. Chissà dove sarà andato quel gran bastardo a farsi un giro di figa. Vuoi 2000? Ma va a cagare sul carbone, scornacchiato. Ma quale 2000 e 2000? Che io c'ho roba molto bella, molto bella, molto bella davvero. E ai marocchini non le do niente, che quelli non pagano. Danno poco, danno, danno poco. E io la mia roba ci tengo. Guarda qua. Guarda che pantaloncini, guarda primavera estate 2015, guarda che beige sfavillante, guarda che roba, manco rocco barocco. E a te, Giova, non te li vendo, affanculo te e i marocchini, che pure quelli danno poco, ma pure te non sei uno largo di mano, eh? Ma quale 2000 e 2000? E ai marocchini non le do niente, ma proprio niente. Che tutte le settimane partono due navi cariche di roba da Genova, che i marocchini prendono a poco perché si sa che i marocchini danno poco, e quelli la spediscono tutta in Africa, a Casablanca, a Guribka, a... Ma dove cazzo sta Guribka poi? Boh. Marrakech. Rabatte. Ma che è Rabatte? Ma no, senti, no, la roba mia me la metto addosso tutta io, e ai marocchini non gliela do, no, a 2000, poi a 2000, vuoi 2000? A farode! Sì, a sì, farode. Guarda, 2000, ti è 2000, ti è 4000, ti è 8000, va a dormire, Africa! E io, caro Giovanni delle balle, mica sono come questi, eh? Eh no, io sono cristiana. Comunicata. Battezzata. Cresimata. E tutto quello che Cristo comanda. Amen. Mica come quella saracena di tua moglie, Giova, che te l'hanno rifilata le suore del buon pastore, te l'hanno rifilata. Te l'hanno data per buona, te l'hanno data. E te, ti sei cuccato tutto il pacchetto. Che quell'altro che sana, Giovà, quella era rotta davanti e di dietro. Ma quale vergine è vergine? La vergine delle banane. E in 4 anni si è presa 60 chili. 15 chili all'anno si è presa tua moglie. Si è raddoppiata. Giovanni, lasci o raddoppi? Sei diventata una leggenda, Giovà. Giovanni, lascia o raddoppia? Giovanni! Giovanni mio! Eccola! Ma che hai nominata Giovanni mio? Ma co conosci pure te? Purtroppo sì, signora mia. Mamma mia, che panza! Manco i marocchini le saltano addosso a tua moglie. Manco i marocchini, che il diavolo se li porti. Oddio, no! Perché voglio un marocchino? No. Voglio un marocchino pure io! E basta! Ma è venuta voglia del marocchino pure a me! E basta! Poveraccio. Lei, i marocchini e quel cagnaccio di ministro tutto fumato che li ha fatti arrivare qui, che quello mica è normale. Quello no. È un cuppio. Quello è degenerato. Ma lo sai che pure le mogli dei ministri mica sono normali? Sono tutte fumate. Quelle, quando vedono un marocchino, non ragionano più. C'hanno il cervello intossicato dai cazzi dei marocchini. Quando quelli glielo fanno vedere, quelle, pem, non capiscono più niente. Ciao, ti saluto cuore, ciao cara. È così, perché il sesso dei marocchini è un sesso perverso. E alle mogli dei ministri le piace solo e soltanto il sesso perverso. mica come la moglie di Giovanni, che alle 9 di mattina si è già scolata a 2 tavernelli. Gioia mia, io devo fare colazione, no? Che faccio, un tavernello me lo faccio? Dai, fatelo con me. No, no. Dai, smezziamo. No. Dai, ripensaci. E basta. Mannaggia, sarà per un'altra volta. Che ore sono? Le 9 sono passate da mo. Senti. Pronta, pronta. Dai. No. Dai, chiamiamola. No, dai. Dai. Dai, ma come te va? Perché mi devo sfogare. Dai, chiamala questa, chiamala. Che pronta? Palle, ma non la smetti mai con sti giochi. Pronto. 809. Mannaggia. Pronto? C'è Giovanni? Ah. È uscito. Stamattina presto, col mezzo, per lavoro. Sì, sì, per lavoro. Passa, passa il telefono. Ma quale lavoro è il lavoro? Che Giovanni è sempre a caccia di terremotate, immigrate, disastrate, scappate di casa. Ma quale lavoro è il lavoro? Che Giovanni ci fa con tutte. Giovanni c'ha la vocazione del protettore. Giovanni c'ha il sesso perverso. E se non lo so io, non lo sa nessuno, non lo sa. Mannaggia, ma io me le inculo tutte a ste mignotte, Giovanni mio. Che pure l'orologio ti sei sbolognato. Giotte. Pure l'orologio. Dove che sei? Se dici le 10, sono le 11, mezzogiorno, l'una, le 2, sì. E io tutto il giorno a rintracciarti. Come una scema a rintracciarti. Pronto? Pronto? Sì. C'è Giovanni, signora Mastella? Signora, io non posso passare mica tutta la mattinata a rintracciarti. Torna quell'impestato di suo marito. No, signora, io non mi preoccupo. Non si mi deve preoccupare lei alle corna pervertite di Giovanni. Ci pensi lei, ci pensi. Pensi a mettersi a dieta. Che Giovanni non le fa più niente, ma proprio più niente. C'ha sto telefono. Ma se mi ci metto io a dieta, in una settimana mollo un po' il fumo. Campari, cinzani, cinzanini, stock, china martini, roba varia così. Io ti divento... Ti divento. Dov'è il vestitino mio? Quello tutto dorato, dov'è? Dov'è? Eccole. Na na na na na na. Na na na na na na na. Chissas. Na na na. La sigletta ci vuole. Mannaggia. Na na na na na na. Io ti divento. Ti divento come una Madonna, ti divento. E la gente si deve girare per la strada quando passo io. Ma quella è lei? No, Ma guarda quella! Non è Maria quella? Ma neanche per sogno. Quella mi pare una Madonna, mi pare. Ma quando mai? Mi pare un figurino, mi pare. Sì, 10 anni fa forse. Adesso non può essere quella stronza di Maria. Quella merda fritta di Maria. Questa qui. Maria? Ti dico di no. Maria! Ma dai, che sei ridicola, ma piantala! Oh? Ma vai a contarcelo ai marocchini, vai. Che quelli c'hanno addosso un'ignoranza spaventosa, c'hanno. E quelli? Mica sono come noi, Quelli mica sono normali come noi, quelli sono niente normali. E a casa loro, mica vedono la televisione. No. No! Quelli sono africani, africani sono. Quelli c'hanno i semafori stampati nel cervello. E appena ti vedono un semaforo, pam, si attaccano lì e non si staccano più. E voglia te a contarcela. Andate via di qua, andate da un'altra parte, in Africa, a cagare, dove vi pare. Ma lasciate perdere i semafori. Se no finite male tutti quanti, con quell'aria inclinata che c'è ai semafori. Andate via, andate in Egitto, andate a cagare, andate via. Che è stata la politica a farvi arrivare qua, è stata la politica. Che voi mica siete normali come i nostri. No, voi non siete niente normali. Così voi arrivate qua, vedete un semaforo, credete che sia una televisione e vi ci piazzate davanti tutto il giorno, tutto. E poi insultate le nostre donne. Che fate proprio schifo, fate. Fate proprio schifo. Che è stata la politica a farvi arrivare qua. È stata la politica. Che schifo. Sì. Turbocco. Turbocco. Turbocco. Turbocco. La trabucco. La trabucco. Ah beh, quella è un'altra. Ma io dalla trabucco ci sono stata. Hai voglia che ci sono stata. E gliel'ho raccontata soave alla trabucco. Vacca boia se gliel'ho contata soave alla trabucco. Che quella sembra che i soldi li metta di tasca sua, sembra. Invece lei mette niente, mette. Bette un bel niente. E l'ho aspettata per un'ora la trabucco. Perché tu la trabucco, se la vuoi beccare, ti devi ciucciare un'ora di aspettativa, se no niente, caro mio Giovanni. Che tu quella volta alle 10 non c'eri nemmeno dalla trabucco. Che è una comoda, che prima di riceverti ti rimbambisce di telefonate. Maria Croce, venga! Maria Croce, allora! Maria Croce, sieda! Maria Croce, firmi! Maria Croce! Ma non rompere le balle, signora trabucco, che sei buona pure te per la tosse. Ma sgancia sti soldi e datti da fare, che per essere comoda, sei comoda, sei una comoda, cara trabucco. E ogni volta che sto per andare a mangiare... Prego! Si accomodi. Ma che fa? Maria Croce, fuma? No. Lei fuma? No. No, no, lei fuma? No. Ah, per carità, metta via quella roba. Metta via quella roba, ma cosa fuma? Fuma per caso calze usate, essiccate e triturate? Cosa vuole? Che voglio? Cosa vuole? Che voglio, i soldi voglio, cosa vuole che voglia? Ma guardi che noi le abbiamo già dato, eh? E come che le abbiamo già dato? Si figuri, guardi il suo fascicolo. Legga, è alfabeta? Leggo io. Legga. Leggo io. Che diamine, Maria Croce, dobbiamo controllare come si porta sto figlio, che è sempre in giro, è sempre peccato, però che sia sempre in giro, perché come testa c'è, altro che se c'è, che se ce l'avessimo avuto in mano noi a quest'ora sarebbe già nel cuscus onore, sarebbe nel cuscus onore, perché come testa c'è, altro che se c'è, vacca boia se c'è, che c'ha un testone sto cazzo di figlio che sta sempre in giro, e noi a pagare, pagare, pagare, scusi la sincerità, signora Maria, ma voi fra tutti quanti bisognerebbe buttarvi a po', bisognerebbe. A po'. È certo, perché Indora non ci annegate mica. Che voi non capite niente di niente, non ve ne frega niente di niente, siete solo buoni a piangere e a piantagrane davanti agli uffici comunali. Voglio i blocchetti, i blocchetti. Ma quanti ce ne ho fatti dare di blocchetti io a lei, quanti, quanti. Buoni pasto, buoni mensa, buoni market, buoni doccia. Già, perché è chiaro che voi vi dovete lavare, miei cari ciozzoni. Eh sì che vi dovete lavare, ma è anche chiaro che voi i soldi ve li mangiate, altrimenti non si spiegherebbe come mai, con tutti i soldi che il comune spende per farvi lavare, come mai voi puzzate. Sì signora mia, perché voi puzzate. E come se puzzate, quanti soldi ci ho fatto dare io a lei, quanti, un mondo, mica scherzi, un mondo, come i fessi a darvi i soldi per mandare a scuola questi cristi figli che ci avete. Ma quanti ne avete di figli? Io uno. Cos'è? Non ci sono le prudenze dalle vostre parti? I vostri uomini non ce l'hanno il paracadute? E se i vostri uomini non ce l'hanno il paracadute, noi cosa ne possiamo, cosa ne? Dobbiamo mandarveli a scuola noi, i vostri figli, che a 3 anni sono già delinquenti, che fate i figli in serie, tutti con lo stampo, tutti uguali, che lei ci ha avuto un culo, ma un culo, ma un culo, con un figlio come il suo che c'è una testa, ma una testa, ma una testa! Ma che io non lo sapevo che mio figlio aveva una testa, cara trabucco delle balle! Eh sì che lo sapevo, già che lo sapevo, non mi serve la tua scienza per saperlo, che mio figlio c'ha una testa, ma una testa! Che me lo dice sempre anche la Diotallevi. Ah già che me lo dice la Diotallevi. Signora Maria Croce, veda che suo figlio è una testa. Non lo lasci andare piccondo suo, che se lei lo lascia andare piccondo suo, suo figlio, sapete, quello si droga. Sì, ma stuba con fenocchi. Ah, ma sovvegliallo, signora! Deve badacci! Che i fig si fanno così, pispot! No! Che i fighi sono come i gatti! Che Dio vede, Dio prevede! No! Ah, ma sovvegliallo, signora! Deve badacci! Altrimenti la strada è quella che è. Ma io non c'ho mica scritto sale e tabacchi. Non c'ho mica scritto sale e tabacchi nazionale esteri. Che arrivo dalla Val Varaita, arrivo. Vengo dai 3000. Provaci te a fare un figlio da nobile come ho fatto io. Prova. Prova te, prova. Che ti fanno un culo così, mica storia. Un culo così ti fanno. E io la vita la conosco. E come se la conosco, care maestrine della minchia. Ma i pacchi di pasta, riso, olio di semi vari, caffè, zucchero, pelati, me li sono cuccati tutti io. E anche gli assegni di ragazza madre, mica li ho dati a quel bastardo stronzo di Giovanni. Che lui ci ha provato a darci il suo di recapito, così gnamme de gnamme. No! I pacchi me li sono cuccati io e mio figlio l'ho tirato su a pasta, riso, olio di semi vari, caffè, zucchero, pelati e simmental. Tanta simmental, che quello mi sembra un drogato di simmental e mio figlio non capisce nient'altro che simmental, simmental e simmental. E Nutella. Ah già, pure lei, la Nutella. Quanta Nutella, ma quanta Nutella! Mio figlio non capisce nient'altro. Che simmental. E Nutella. Non è mica facile. Eh no. Ma non quello, è stato facile. Quel figlio che ci ho avuto, che c'è stata la mano di Cristo in mezzo. Non è proprio facile. Sì, sì, sì, che quello c'ha un testone così grosso che ti pianta su delle poesie. Che apriti cielo. Mamma mia, quando tiri su un figlio con un testone così ti sale un mago. C'è da rompersi, coglioni, tutta la vita c'è da rompersi. No. Eh sì che c'è da rompersi, e trovali te i libri se sei buono. Ma come si fa? Quello legge tutto, tutto, tutto quello che c'è da leggere lui me lo legge. Quello lì. Eh sì, perché c'ha un testone della Madonna, c'ha. Le pagine gialle, le guide del telefono, tutto città, quello lì. Sì, sì, ma anche panorami, espressi, confidenze, legge, Grand Hotel. E a comprarci tutti questi giornali e giornaloni, tipo espressi, panorami. Confidenze, Grand Hotel, che a questi qua ci do un'occhiata, pure io ci do. E a me, se non è roba da mangiare, a me viene male, io a spendere tutti quei soldi mi viene male. Ma che? I fotoromanzi? No, ti prego, guarda questa, guarda lei, lui e la vignetta, in quest'ordine. Che brutti. So proprio brutti adesso. Che schifo. Ma non erano così, dai. Non erano così ste robe. Eh no che non erano, no. Ma ti ricordi com'erano? Ti ricordi? Ma sì che mi ricordo, dai. Dai, proviamo. Dai, vai. Aspetta. La sigletta. Sigletta da fotoromanzo. Oh, dritta, luce rossa. Profilo destro. Profilo sinistro. Ridi? Piangi? Aspetta. Sorpresa! Ora bella cammina. Cammina avanti e indietro. Dritta? È più dritta, dritta con quella testa, stai dritta. Dritta, dritta! Vabbè, sciogli, va? Oh. Tu, tu, tu, tu, tu, adesso fa pioggia calda. Brava, ora pioggia fredda. Brrr. E ora fai il vento. Vento, mi piace vento, quanto mi piace il vento. Vai, vai di più, più intensa. Oh, sei brava, sei brava. Ora mi fai la tigre nel vento. Brava, brava, la tigre nel vento che ruggisce. Arrasciva! Ci picchia! Adesso tu sei disperata. No, disperata molto di più, disperatissima, tutto che proprio il fondo. Oh, sei prostrata, ma fiduciosa. C'è la fiducia. Vedi una luce in fondo al tunnel. Eccola la luce, eccola, ma torna la disperazione. O sei disperata e fiduciosa. Fiduciosa e disperata. Mescola, mescola, mescola, mescola, mescola, mescola. Ricordati il vento di prima. Mamma mia, che spettacolo. Capolavoro. Assoluto capolavoro. Ma chi è? Donaldo. Maria Croce, ma mi ha riconosciuto? Ma certo che a lei i giornalini le fanno di un bene, le fanno. Ah, mi raccomando, non ce li compri mica suo figliolo. Che con quella roba, si sa, no? Fa male alla testa dei ragazzini. Niente maghella, sorchella, sbora, zora, sotto, sora, ste robe, no, niente. Che se no i ragazzi si ammalano. Amen! Amen! Ah, brava, pensi piuttosto a mandare scuola, dopo scuola, catechismo, la comunione, una cresima, to! Una bella cresima che non si nega a nessuno, che è importante la cresima! Certo che se non c'era Donaldo. Scusi la frase, ma lei, co cazzo, che ce la faceva? Ce la facevo! Non ce la faceva! Ce la facevo! Ma neanche per sogno che ce la faceva! Donaldo è un santo! Santo sì! Vieni, sorella bella, che balliamo! Anche se sotto la veste di Donaldo si vede che c'è l'uomo, che qualche volta la veste da prete mi sembra una tenda da campeggio. Ah, ma Donaldo è un santo, sorella, no? È pace! Ma anche ai santi le viene duro. Che c'entra? Quella natura è natura. Sì, ma anche ai santi le viene duro. Non c'è Cristo né Madonna. E quando deve venire duro, viene duro. Ma quanti ne ha salvati dalla strada, Donaldo? Quanti? Tanti? Quanti, sorella? Tanti. Quanti che non ho capito bene? Tanti. Brava sorella bella, brava! Ale! È inutile che mi dite che se ce l'avevo io un figlio così, ora era nello stato a fare la carriera. Perché bisogna essere in prova prima di dire. E provi lei! Provi lei, signora Trabucco, a fare un figlio da nobile come ho fatto io! Oh. Senza uomo dietro al culo che te lo para il culo! Provi! Provi lei a fare un figlio da ragazza madre! Lascia! Mi lasci! Mi lasci! Farabutti! È stata tutta colpa di quel bastardo di Giovanni. Non ha voluto riconoscere il figlio. Non mi ha voluto riconoscere il figlio. M'ha messo in condizione e poi m'ha mandato a cagare. A cagare, bella, vai a cagare, vai. Me son parolato, me son parolato. È una famiglia, sono a squadra, fanno paura, so tantissimi. E fratelli, sorelle, madri, padri, comari, nipoti, pronipoti, nonni, bisnonni, zii, zii, cugini, secondi, terzi, quarti, quinti, tutti nella stessa casa. Se oso te fiatà, me rompono le corna. Ormai me son parolato, me son parolato. E te, arrangiati, e te. Arrangiati e non rompermi i coglioni. Brava, ora dico lo sai. Che poi? Siamo proprio sicuri? Ma dai, siamo proprio sicuri con tutto quel via vai che c'hai là sotto. E dai, dai, non me la conti, Non me la conti? Te l'ho detto, famo altro, famo altro! Non c'ho paragarro, non c'ho paragarro! Famo altro, famo altro! Facciamo altro. Brutto maiale, facciamo altro. Ma vai a mettercelo nel culo a tua sorella, vai. Che quella va coi marocchini, è tutta rotta. A me mi tocca di tirarmi su da sola. Sto figlio che c'ha un testone, cari miei, ma un testone. Il culo me lo sono fatto io. Un tombino della Madonna. E su e giù per uffici, assistenze, patronati. Che io non ne posso più di andare a battere a destra e a sinistra. Che l'intelligenza ai poveri non ci fa bene e non ci fa. Che con quelli intelligenti e poveri doppia fatica. Oh già, doppia fatica. Infatti con gli altri cosa ci vuole? Gli dai prima le caramelle, poi le sigarette, loro sono contenti e vanno alla partita. Poi se la rivedono in televisione è tutto a posto. Ma con quelli intelligenti, doppia fatica, che l'intelligenza ai poveri è un danno. Che poi, anche se veniamo su come dei cottolenghi, basta e avanza. Come lavorare alla Fiat, che anche un cottolengo è capace. A noi l'intelligenza ci fa un baffo, se non peggio. Che era meglio se davo retta a quel bastardo di Giovanni. Prendi 10.000. Prendi 10.000, prendi 10.000. 10 io, 10 te. Te la fa metterci ferri da cazzo la zia Rosa. Quella è pratica, ne sa tante di ste robe al giorno. Te prendi 10.000, prendi 10.000. Vai da zia Rosa, te fai mettere sui ferri la calza, lo caghi fuori e non ci pensi più. Che io che c'entro? E dimmi un po' che c'entro io che c'entro in questo bel film? Dimmi un po', c'entro qualcosa in questo film? Che a me mi pare tutto un film questo, che hai messo su tu per cuccarmi i soldi. Non me la conti, a me non me la conti. Prendi 10.000, prendi 10.000, 10 io, 10 te. Te vai a far su sta cosa da zia Rosa. È un sistema, allora massimo tu sei sistemata. E poi puoi andare a cagare. Prendi 10.000, prendi e pedalare. Pedala bella, pedala, passi sempre lunghi e ben distesi. Pedala bella, pedala, aria, aria e pedala. Ma quale pedalare e pedalare? Pedala tu, schifoso d'un bastardo e sporcaccione d'un lurido, che a te t'hanno sempre chiamato Giovanni il lurido, zozzone che non sei altro. E te nella tua tenda mi ci volevi mettere a me, eh? A beccare i merli tutto il giorno. Ma a me non me ne frega niente di niente di essere la tua preferita, hai capito? Te, lurido, che mi dici alle 10, ma te alle 10, vigliacco se ci sei, vigliacco, eh? Ma io c'ho l'omega, io c'ho l'omega, c'ho mica roba dei marocchini. 25, e te alle 10 non ci sei mai. Ancora 25 rubis, movimento ancora 25 rubis. Che? La banda? Ma che banda? Ma io non ne so niente di niente di questa maledetta banda. Ya signor, però pure lei agevoli sto fatto, no? Ci dica, ci dica. Ma cosa vuole che ci dica, dottor Ponzio? Io non ne so niente di niente di questa maledetta banda. Ah sì? E con tutti i libricini che suo figlio si leggeva, che quanti libricini si leggeva, signora mia, suo figlio? Lei non ne sapeva niente di niente. Ma io non ce li compravo. Che anche Donato me l'aveva detto. Che se no ci si riempie la testa di rabadan politici. E uno è rovinato. È come se andasse coi cuppi, peggio ancora. Ya signora, facciamo presto, ce ne andiamo tutti a casa, lei ci parla dei libricini e ce ne andiamo tutti a casa. No, io i libricini non ce li compravo, che io badavo che non mi cadesse in una sorchella, in una maghella, in una zora, in una sbora, in una iacula, perché Donaldo sarà raccomandato tanto. Maria, Maria! Vada retro iacula, vada retro iacula! Io, dottor Ponzio, i libricini in casa mia non ce li ho visti mai. E se poi lui li nascondeva? Se poi lui li nascondevi, cosa ne posso? Cosa ne posso io? Che ne può una mamma? Che ne può che ha fatto un sedere così a tirare su un cristone con un testone come quello? È vero, commissario, che c'è il testone, mio figlio, no? È vero. Me l'ha detto anche lei. Se lo dice uno della madama, te puoi crederci. Puoi crederci, puoi giurarci che tuo figlio c'ha una testa grossa così. Perché saranno anche delle carogne. Ma se ti dicono che tuo figlio c'ha una testa grossa così, te puoi crederci. No? E che ne può una mamma? Che ne può se al figlio ci trovano i libricini sotto il materazzo? Che io non sono mica come una della madama che sta a fare le pulce al materazzo del figlio. Che a me mi basta che non mi iacula il figlio e poi dopo ci lascio la sua libertà, ci lascio. Ya, signora, facciamo a capirci qua. Lei, suo figlio, non l'ha vigilato. Lei si pensa che per tirare su un cristiano per bene abbassa la simmental... E la Nutella, guaiosa, qua sta la Nutella, ya! Ma quale Nutella è Nutella? Io mio figlio l'ho seguito, dottor Ponzi, e sì che l'ho seguito, e ci ho badato! Ma io non sono mica come una della madama che sta a fare le pulce al materazzo del figlio! No! Perché mio figlio è censurato! L'ha detto anche lei che quel povero Cristo di mio figlio è censurato. E quando uno è censurato, vuol dire che la mamma l'ha seguito al massimo, l'ha seguito. Al massimo, che più di così non si può. E mio figlio non ha mai marcato la porta di questa porta. Come? Non l'ha mai marcata, dottor Ponzio. E scrivi a verbale, non ha marcato... La porta di questa porta. Commissario, mio figlio non ha mai marcato la porta di questa porta. E non si è mai messo in autoradio, Montambic, Cerchillega, stereo, mai. Perché mio figlio c'ha un testone così. Io non l'ho seguito. Questo dice che mio figlio io non l'ho seguito. Ma io sì che l'ho seguito. Lo dice anche Donaldo che l'ho seguito. C'è un testone di Cristo di figlio. Lo dice la Trabucco. C'è un cristone di figlio. Lo dice la Dio Tallevi. C'è un Dio Cristo di un figlio. Che c'ha una testa, mano a testa. Che c'è la mano di Cristo in mezzo. Che è un peccato, Sì, è un peccato. Ah, dottor Ponzio, ma cosa ne posso io della banda? La banda del Cristo. Cosa ne può una mamma? Cosa ne può una mamma che ha fatto un sedere così a tirare su un Cristo di figlio come quello? Che può chiedere a tutti, Può chiedere a tutti se non l'ho vigilato. Chieda, dottor Ponzio, chieda. Faccia il favore, chieda. Che lei se ne frega niente di niente e se ne vuole già lavare le mani con palmolive, A me l'hanno avvertito che lei è uno che te le fa buone davanti e di dietro te lo ficca nel serapapè. Dottor Ponzio? Dica, dottor Ponzio, che lei è uno che te le fa buone davanti e di dietro te lo ficca nel serapapè. Ma io non c'ho mica la sveglia al collo. Che lei se ne lava le mani con palmolive e mio figlio finisce in galera... Che chissà quando lo rivedo io. Io che mi sono rotta il sedere a fare. Ma quale sono? Ah, mannaggia. Mannaggia sto bastardo di Giovanni che mi lascia qui con sto dottor Ponzio. Che faccio? Che mi chiede e mi richiede di tutti quei libricini. Tutti i rabadan politici che ci hanno trovato addosso a mio figlio. Hanno fognato dappertutto, E sotto il materazzo, e in cantina, hanno fognato dappertutto. E hanno tirato fuori quei libricini fini. Tutti i rabadan politici che una mamma. Ma cosa ne può una mamma se il figlio c'ha tutti i libricini fini. Tutti i rabadan politici. È stata tutta colpa della Maddalena. È stata tutta colpa di quella. Che quella... Quando si è messo con quella lì, io gliel'ho detto a mio figlio che quella se la sono praticata tutti alle case popo. Tutti se la sono praticata. Ma con tutte le brave ragazze che c'erano in giro. Si doveva mettere proprio con quella. Con quella Maddalena delle case popo. Che quella è mica una normale, Quella me l'ha rimbambito, me l'ha con tutto quel sesso. Che quella c'ha il sesso perverso, c'ha. E me l'ha rincoglionito sto Cristo di figlio. Che è tutta colpa sua questa storia di banda e banda. Signora! Signora, ci amo tanto, di suo figlio che ci ha parola bellissima, signora, ci ha parola bellissima, signora, io ci amo di suo figlio, che lei neanche immagina quanto io ti amo di suo figlio, pi parola che bellissima, signora. La Maddalena è sempre stata solo una picetta da case popolari, è quella, è tutta colpa sua questa storia. Una pistola col colpo. A me a momenti mi viene una paralisi dal dolore che una ragazza madre non può mica guardare nella pistola del figlio. Non può. Vacca boia, vacca boia, ma chi me lo deve dire a me che se vedo una pistola io scappo? So solo quella di Giovanni di pistola. Se vedo la pistola io scappo perché ho paura anche solo a toccarla. Ma chi me lo deve dire a me, a una ragazza madre, che il Cristo di figlio che c'ha mi torna a casa con la pistola infilata nei pantaloni? Ma chi me lo deve dire a me che se vedo una pistola scappo io? Scappo! Mi è preso male perché questo Cristo di figlio va verso un destino che io ci voglio vedere chiaro in questo destino. Tieni, leggi questo. Dottor Ponzio! Ma che fa? Se ne lava le mani! Guardi che se uno se ne lava le mani, un altro va al suo destino e pace! Una monferrina, è tutta una monferrina, che non si sa mai, non si sa mai come comincia, non si sa mai come finisce questa monferrina, ma questa storia di banda e banda è tutta una monferrina, nessuno ne sa niente di niente. Vero, dottor Ponzio? Questo. Ma io mio figlio l'ho seguito, questo. Io sì che l'ho seguito, questo. Dottor Ponzio, quel povero Cristo di mio figlio, io l'ho seguito. Senti qua. No! Storicamente. Che ore sono? Mannaggia, quel bastardo! Ma l'ha visto lei a Giovanni? L'ha visto lei a quel gran bastardo di Giovanni? Io è tutta la mattina che lo rintraccio, tutta la mattina! Ma io lo so da che gamba zoppica. Quello è chiuso nell'ape con qualche terremotata, con qualche marocchina della legge 180. Senta! Stai tranquilla, Marista, stai tranquilla. Alle 10 ci sono io. Conosco a Ponzio. Beh? A voglia che conosco a Ponzio. Non è cattivo, è fatto così. Se parte da una mano, se no se ne lava due. Se passa, lava una mano, se no se ne lava tutte e due. Non è cattivo, è fatto così. Ce ne fa niente, ce vuoi. Te mettiti tranquilla, che alle 10 ci sono io, ci parlo io a Ponzio, e qualcosa faremo qualcosa. Ma che vuoi fare te, che sei un uomo rovinato dalla moglie sei, e io c'ho un figlio nelle grane per il rabadan della politica. Leggi. No. Leggi qua. No. Leggi qua. Le origini del sovrano ordine sono lontane nel tempo. Ma io non arrivo a capirci niente. E se non arrivi a capirci niente... Mio figlio mi marcisce in galera. Dottor Ponzio! Dottor Ponzio! Non dice niente neanche lui. E nessuno arriva a capire cosa ci passa per la testa a questo dottor Ponzio. Un presentimento. Io c'ho un presentimento. Questo Cristo di un figlio si è andato a immerdare nella politica. E la politica non è mica come la Nutella. La politica è la politica. E te ti immerdi, caro Cristone di un figlio. E allora? Allora mi sono rovinata. Altro che se mi sono rovinata. Che io mi sono rotta il culo per darci un figlio alla politica. Che è come darcelo allo Stato. Che lui te lo prende e te lo manda dove vuole. E contro lo Stato, per una mamma, ma che c'è da fare? Ma che c'è da fare contro lo Stato per una mamma? Non c'è niente da fare, niente pace. Dottor Ponzio! Dottor Ponzio! Ma che fa? Se ne lava le mani allora. Ma lei che ne sa? Che ne sa? Che per sapere certe cose bisogna essere stati alla prova. E lei alla prova non può esserci mai, perché lei è uno di quelli che di famiglia non ne fanno. E con voi non c'è più niente da fare. Con voi, per noi mamme, non c'è proprio più niente da fare. E vogliate a chiedere la pensione di invalidità. E le voci, e San Vincenzo, e Gesù qui, Gesù ora, Madonna della Standa, Santi a domicilio. Ma te con un figlio in galera, dove vai? Hai voglia di andare a mondo X, mondo domani, mondo salvato dagli operai, mondo dei ragazzini, mondo in croce? Ma te senza un figlio che fai? Vai a mondo X, mondo domani, mondo del cazzo, ma te dove vai? Che l'ho vigilatolo, l'ho vigilatolo, l'ho vigilatolo! L'ho vigilato, l'ho vigilato, l'ho vigilato. A me mi viene la voglia di vendere tutte i marocchini. Giovanni non mi viene. Io faccio un pacco e vendo tutto a quelli là. E pace. Dove lo rintraccio? Dove lo rintraccio mio figlio io? Una settimana dove lo rintraccio? Nessuno ne sa niente, tutti se ne lavano le mani. Dove? Io faccio un pacco e vendo tutte i marocchini. E pace. Dove lo rintraccio? Una settimana dove lo rintraccio? Una settimana, tutti se ne lavano le mani. Tu. A questo giudice Caraffa, dove? Che è 2 giorni che cerco di rintracciarlo e nessuno lo conosce, nessuno l'ha mai visto, che mi sembra un fantasma questo giudice Caraffa e nessuno mi aiuta a rintracciarlo. Pronto? C'è il giudice Caraffa? No. Ah, era qui 2 minuti fa, adesso è uscito. Ma dove lo rintraccia questo giudice Caraffa? Dove? Che 2 giorni che cerco di rintracciarlo e non riesco a rintracciarlo. C'è o non c'è questo giudice Caraffa? C'è o non c'è il giudice? È 2 giorni che pedalo per uffici e lui ogni volta appena uscito, appena andato, appena partito, perché lui deve firmare il colloquio con quel Cristo di mio figlio. E come faccio io se non trovo il giudice Caraffa? Come faccio a trovare il giudice Caraffa? Come? Come? Pronto? Stai tranquilla! Che ci sono io alle 10, ci sono io! Tu rintraccio io a Caraffa. Ma qual è il problema, qual è? E sto colloquio con sto Cristo del figlio te lo fai subito, ma te lo fai subito! Che io in procura conosco tutti, vita, morte e miracoli, vita, morte e resurrezione e miracoli conosco! E a sto Caraffa c'era subito per tu, secco, secco. Preciso, preciso, sì, sì, che io me lo lavoro io a Caraffa, ci vado sotto de Vacchero Constantin, Rolex, originale autentico finto oro, originale autentico finto oro, mobile antico, Luigi Filippo, che giudice piace tanto sto Luigi Filippo, e vedrai che sto colloquio subito che te lo fai, subito, però... mettiti tranquilla, mettiti tranquilla, altrimenti mi vieni su matta, mi vieni. E poi, che si fa? Dimpo, che si fa? Hai voglia te aspettare Giovanni, che quello dice alle 10, ma poi va a sapere te, pace. E questo giudice Caraffa, nessuno l'ha mai visto, nessuno, in ufficio c'è, non c'è. E mi sembra un destino questo giudice Caraffa. E io senza giudice Caraffa, come faccio a rintracciare questo Cristo di figlio? Che quello senza simmental mi muore di fame, mi muore. Che tra questura, procura, digo, semmenate varie. È una settimana che non mi mangia e chissà in che stato lo rintraccio. Se lo rintraccio. Penso male. Penso male, sì, penso. E se penso qui non arriva almeno Donaldo? Male, Donaldo lo conosce a quel Cristo di mio figlio male, e lui può dire al giudice Caraffa delle pistole che lui le pistole non le ha mai manovrate. Chieda a quella Maddalena che doveva essere anche lei qui a rintracciare sto Cristo di figlio. Ma l'ha vista lei? L'ha vista lei? Quella tipa là era tutta una chiacchiera e a forza di chiacchiere me l'ho rimbambito, me lo ha sto Cristo di figlio. Signora, io ci siamo di suo figlio che c'ha verbo, bellissimo! Un verbo di suo figlio neanche ci immagina, che bello che è verbo! Un verbo che ha suo figlio, che suo figlio c'ha il verbo! Ah già, c'ha il verbo mio figlio, ma dai! Figurati se non lo conosco il verbo di mio figlio, cara Maddalena delle case Popo! E che ore sono? Ecco, vedi, pure questa non si è fatta vedere. Pure questa è un sacrificio. Un sacrificio per quel Cristo di mio figlio. Quella può farlo, no? Se no a cosa servono tutte le parole? Che qui ci vogliono i fatti, ci vogliono. I fatti ci vogliono. Bisogna farsi dare il colloquio dal giudice Caraffa, anche se è sabato, perché di sabato lo Stato lavora. E solo gli ebrei non lavorano di sabato. Che speriamo che non è un ebreo questo giudice Caraffa, se no al sabato non mi lavora e ciao colloquio e pace. E io come faccio? Come faccio a rintracciare questo Cristo di figlio che nessuno è capace a rintracciarmelo? Qualcuno dice Digos, qualcuno dice carabinieri, qualcuno dice polizia, ma io non so nemmeno se è vivo o morto. Si fa per dire. Questo Cristo di figlio nessuno è capace a rintracciarmelo. Questo Cristo di figlio, nessuno è capace a rintracciarmelo. E io penso male, penso male. Penso male? Perché qui non arriva nessuno. Perché qui non arriva nessuno. E questo giudice Caraffa nessuno sa che faccia abbia. E questo giudice Caraffa nessuno sa che faccia abbia. Che mi sembra un destino questo giudice Caraffa. E mi viene da pensare. Questo giudice Caraffa. Non esiste. Mio figlio! Non lo vedo più. E se non lo vedo più, perché non c'è Caraffa, non ci posso parlare se non ci parlo. Se non ci parlo? Se non ci parlo. Se non ci parlo! Se non ci parlo? Ma neanche Donaldo si è fatto vedere. Donaldo che diceva che se mio figlio era in mano alla chiesa, ora era prete, era vescovo, diventava cardinale, diventava. E di banda non se ne parlava. La trabucca è sul territorio. Ma perché? Ma dove sono io? Sono in cielo. Sono impegnata in cielo. Ma perché io? La trabucco non va al Cottolengo, eh? Come fa la Diotallevi che ci lascia tutto agli infelici del Cottolengo? Diotallevi! Diotallevi! Ma guarda che infelice! Non ti sembra un infelice, Diotallevi? Diotallevi! Diotallevi! Che mi si porta al Cottolengo? Diotallevi! Mi si porta al Cottolengo! Al Cottolengo! Al Cottolengo! E rida! Rida! Se la faccia una risata! Che io faccio battute! Perché sto tanto giù! E ci ho presentimenti tanto brutti per questo Cristo di mio figlio che si è andato a mettere in politica! Si è andato a mettere! La politica è sporca, la politica! La politica ha mandato sulla forca Cristo! Io c'ho un presentimento tanto brutto per questo mio figlio che si è andato a mettere in politica! Che mio figlio non le poteva cambiare le leggi del mondo. Perché il mondo non aspetta mica il Cristo di mio figlio. Che il mondo si è svegliato prima di tutti i poeti e di tutti i profeti messi insieme. E anche con la sveglia. È il mondo che l'ha inventata la sveglia. E tutti quelli che si svegliano dopo il mondo. E si devono mettere in coda. E mio figlio ha sbagliato a farsi l'orecchino al naso. Ha sbagliato perché quella è una sfida al mondo. È una sfida anche con la pistola. È più esperto il mondo con la pistola e anche con le carte e a tutti i giochi, perché è il mondo che li ha inventati i giochi. E tu col mondo non ne scampi, tu non ne scampi, non ne puoi, perché il mondo ha impiccato Cristo, ha impiccato. Perché se tu c'hai coscienza, questo mondo ti impicca. È pace. E a me mi tocca di aspettare qui, da sola. Da sola? Sì. E meno male che c'ho una bottiglia di stock. Se no come facevo? Come fa una mamma senza stock? Con un figlio che è prigioniero e un giudice Caraffa? Che non si trova. E il dottor Ponzio? Se ne è lavato le mani. La Maddalena? Mica viene. Donaldo? Donaldo sta coi drogati. La trabucco. La trabucco è sul territorio. Diotallevi. Ah, quella c'ha il Cottolengo dopo la lezione, c'ha. E Giovanni. Ah. Dov'è Giovanni? Che il demonio se lo porti? Dov'è? Giovanni, dove stai? Giovanni, che io sto sempre qua, sto... Giovanni, dov'è Giovanni? Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, te puoi andare a drizzare le banane al circo equestre. Adò? Al circo equestre. Ma che è? È difficile. Prova. Prova, Giovanni, prova. Giovanni, prova, prova, c'è Giovanni. Ti riuscisse bene qualcosa nella vita? Drizza ste banane. Prova, Giovanni, prova. Drizza, drizza, drizza. Drizza le banane. Drizza, drizza, drizza le banane. Giovanni. Drizza, drizza. Drizza le banane, Giovanni, drizza! Butta caso! Butta caso! Che io il giudice non lo trovo! Non lo trovo! Come faccio a fare il colloquio con quel Cristo di mio figlio? Come faccio? Non lo faccio! Non lo faccio e pace! Ah, lo vedi che mi devo attaccare, è tutto un destino, eh? È tutto un destino. È tutto predisposto, tutto decretato. Tutto. Come in un tribunale che il demonio se li porti. A tutti. E te? Te contro il destino che fai? Che fai? Che fai? Niente, non faccio niente, niente, pace. Ah, lo vedi? Lo vedi? Contenti. Che io c'ho lo stock, c'ho. Butta caso. Butta caso. Che mio figlio si è svenato. Si è svenato. Perché Giovanni, l'esperto di galera, dice che ogni tanto là dentro qualcuno si svena. Oh, si svena. E io me lo devo andare a ritirare tutto duro. Tutto freddo come un baccalà. Tutto avvolto nel lenzuolo dell'amministrazione carceraria. Tutto duro, tutto freddo, tutto nero, tutto come un baccalà. E che faccio? Che faccio? Che faccio, sì, che faccio? Che faccio? Che faccio? Che faccio? A po! Eh? Mi butta a po! A po! A po! Perché Ndora non ci annego e io mi butta a po! Mi butta a po! Mi butta a po! Mi butto! Mi butta a po! Mi butta a po! A po! Mi butta a po! Mi butta a po! A po! A po! A po! Giovanni, te ne prego. Giovanni, te ne prego. Sono una mamma, fatti vivo. Sono una mamma, fatti vivo. Te e quella buona niente di una Maddalena. Te e quella buona niente di una Maddalena. Venite a darmi una mano che qui si mette male. Venite a darmi una mano che qui si mette male. Si mette una bufera, una bufera di quelle. E io sono senza paracqua. Che ci faccio io al mondo senza paracqua? Questo Cristo di un figlio. Questo Cristo di un figlio. Non me lo fanno più vedere. È tutta una burocrazia. È tutta una burocrazia. Sono come le sabbie immobili. Sto Cristo di un figlio. Vuoi vedere? Vuoi vedere te che qui va a finire? Vuoi vedere te che qui va a finire? Che mi viene una guardia in casa. Che mi viene una guardia in casa. Mi portano in un posto scuro. Mi portano in un posto scuro. Con un tavolaccio. Con un tavolaccio. E chi c'è steso sopra quel tavolaccio? E chi c'è steso sopra quel tavolaccio? Chi c'è? Chi c'è? Ma si accomodi, signora. Ma si accomodi, signora. Che adesso facciamo il riconoscimento. Che adesso facciamo il riconoscimento. Chiamiamo il giudice Caraffa. Chiamiamo il giudice Caraffa. Facciamo il riconoscimento. E poi facciamo il riconoscimento. Lei lo riconosce quello là. Lei lo riconosce quello là. Quello là, steso su quel tavolo. Quello là, steso su quel tavolo. Lei lo riconosce. Lei lo riconosce. Brava, signora. Lo riconosca. Brava, signora. Lo riconosca. Intanto noi rintracciamo il giudice Caraffa. Intanto noi rintracciamo il giudice Caraffa. Ma che me ne faccio io del giudice Caraffa? Se qui non arriva nessuno. Che è tutto uno schifo di mondo. È tutta una politica sporca. Nessuno sa niente di niente. E c'è lampara acqua. E c'è lampara acqua. No. No. E lei c'è lampara acqua. E lei c'è lampara acqua. No. No. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Ce l'hanno e non te lo danno. Ce l'hanno e non te lo e danno. E sono tutti per prendere. E niente per dare. E a me mi tocca dare. Di andare nel temporale senza paracqua. E a me mi tocca andare nel temporale senza paracqua. Tanto questo giudice Caraffa non si trova. E questo Cristo di mio figlio nessuno sa niente di niente. E io vado via, perché non sono mica come la Madonna, che sta a aspettare la resurrezione, no! Io vado laggiù, alla fermata del tram, prendo il tram, e se mi bagno pace, se mi bagno... Se mi bagno, pace!